relazione di Dante Zappi dedicata alla diffusione della società germanista in Trentino e nel litorale, tra tutti quelli che sono stati relatori qui in questi giorni. Davide Zappi è la persona più di casa perché lavora proprio in queste mura, è stato ed è ricercatore borsista presso l'Istituto Storico Italo-Germanico. E a questo tema ha dedicato la sua attenzione da parecchio tempo e su questo tema lavora anche in una base comparatistica molto ampia che gli deriva anche dal fatto di possedere conoscenze linguistiche come quelle dell'ungherese e del rumeno, che non sono certo frequentemente molto diffuse tra di noi. E indubbiamente questo background, questo retroterra è anche importante e significativo per cogliere questa dimensione più ridotta del problema su una scala geografica che prenderà in considerazione in questo momento. E quindi gli do subito la parola perché possa iniziare la sua esposizione. Sì, prima ancora di cominciare, siccome ci ho lavorato a lungo, insomma, vorrei distribuire a chi non conosce bene Trentino una carta, poi sarà illuminata, ma qui ho anche segnato alcuni tratti che poi discuteremo nella relazione. Grazie. Ecco, una delle caratteristiche maggiori della vita politico-sociale della monarchia di fine secolo è costituita dal sorgere di associazioni definite dai rispettivi promotori di difesa nazionale, in tedesco nazionale Schutzvereine. Si trattava sostanzialmente di un novum. Era infatti la prima volta che nell'area mitteleuropea la motivazione nazionale determinava il sorgere di stabili organizzazioni di massa. Che l'entità nazione, intesa come un organismo dotato di sue proprie leggi di sviluppo, potesse venire minacciata nella sua consistenza fisica e spirituale, per usare un termine che allora veniva impiegato in Austria, il suo Besitzstand, la sua consistenza fisica e spirituale, era affermazione risalente a quasi un secolo prima, sostenuta, come è fin troppo noto, da Herder e in seguito poi da numerosi esponenti della corrente filosofica e artistica dell'inizio del XIX secolo in diversi stati del Bund. Nell'impero quest'idea però non attecchì, come è noto, che presso alcune personalità piuttosto isolate e senza alcun influsso sulla vita pubblica del loro paese, forse in Ungheria qui è un'eccezione. Le associazioni autonominatesi corifee dell'idea nazionale compaiono tardi e con successo relativamente limitato in Austria. Il primo gruppo ginnico, nel senso moderno del termine, nel senso che gli aveva dato Jahn, e appare in Austria soltanto nel 1861 e sono passati oltre 50 anni da analoga iniziativa a Berlino. Le Burschenschaften cominciano a conquistare per davvero piedi nelle università austriache soltanto a partire a cavallo degli anni 60-70. L'effetto di queste associazioni sull'opinione pubblica e non soltanto sui circoli giovanili è poi di una certa rilevanza soltanto nei paesi boemi, mentre appare debole in Bassa Austria e addirittura nullo nei rimanenti Länder. Nel secondo Allgemeine Turntag, la riunione di tutti i ginnasti dell'area tedesca che si tenne a Gotha nel 61, il secondo perché il primo non partecipò nessun austriaco, ce n'erano 25. Uno veniva da Trieste e uno da Innsbruck. Le cose non dovevano cambiare che molto lentamente e il Tirolo offre in questo un esempio. Intorno al 1867, quindi siamo all'indomani della guerra che ha portato la frontiera del Regno d'Italia fino ai confini del Trentino, Attorno al 1867, tre professori dell'Università di Innsbruck, soliti come molti dei loro concittadini trascorrere le vacanze nella parte meridionale del Tirolo, ebbero dirette esperienze dello stato miserevole in cui versavano, dal punto di vista dell'istruzione, diverse località tedescofone situate in valli in maggioranza italiane. Le scuole c'erano in queste località, che però conducevano una vita stentatissima. Le lezioni vengono impartite in una sala attigua alla sacrestia o addirittura d'inverno per tenere caldo vicino alle stalle proprio. Rientrati nel capoluogo tirolese, questi tre professori, tra cui Ignaz Zingerle, che poi compose un dizionario del dialetto di Luserna, considerarono la possibilità di venire finanziariamente in aiuto alle località in questione. Composero e presentarono alla Stadtverwaltung gli statuti per un comitato Unterstützung der Deutschen Schule in Bergstirol, un comitato per il sostegno della scuola tedesca nel Tirolo italiano. Inviarono quindi a colleghi austriaci e del Reich appelli affinché venissero promosse nelle rispettive sedi raccolte di denaro per i dimenticati connazionali residenti nel Tirolo italiano. Mentre dal Reich e segnatamente da Lipsia e Francoforte arrivò qualche contributo, Innsbruck rimase molto fredda e Vienna non rispose che in maniera assai limitata. Ad ogni modo, fra i donatori vi era, con una somma notevole, perché a 300 fiorini, lo stesso Francesco Giuseppe. Io però non so dire se questa donazione sia avvenuta per un sostegno all'opera nazionale compiuta da questi professori di Innsbruck, oppure se fosse un contributo di routine che la corte praticamente non negava a nessuno. Certamente l'epoca in cui questo avviene è notoriamente un'epoca in cui la corte di Vienna ci sono preoccupazioni riguardo alla lealtà dell'elemento italiano nel Trentino. Anche se l'attività propagandistica dei professori in questione rimase piuttosto limitata, il comitè trovò modo tuttavia di pubblicare una sorta di bollettino societario in cui informava delle sue attività e in generale dei bisogni scolastici più urgenti dei tedeschi del Tirolo meridionale. Globalmente il comitè ebbe a disposizione solo qualche relativamente modesta somma, soprattutto per requisiti scolastici e per borse di studio destinate a giovani di Luserna e Fierosso, due località tedescofone del Trentino, disposti a compiere la scuola magistrale a Innsbruck e tornare poi nei paesi d'origine ad insegnare il tedesco. Infatti, per queste comunità, situate molto lontano dai centri, grandi centri, anche dalle linee di comunicazione, era difficile convincere un insegnante a prendere dimora lì e spesso occorreva pagarlo più di quanto non faceva un'altra comunità. Dopo appena qualche anno di attività, comunque, nonostante il comitè avesse assunto la più ambiziosa denominazione di Deutsche Schulgesellschaft, società scolastica tedesca, si nota una certa riduzione dell'attività a partire dal 76, dovuta in primo luogo a problemi personali di alcuni fra i suoi 5 soci. Ecco, e 3 anni più tardi capitò fra le mani di Engelbert Pernestorfer a Vienna un opuscolo scritto da un medico di Francoforte nel quale si descrivevano gli sforzi di un parroco di lingua tedesca della Val di Non per dotare il suo paese di un edificio scolastico. La comunità, Provais, era troppo povera per permetterselo. Pernestorfer parlò del caso per alcuni amici al caffè centrale. In breve il gruppo di amici, tutti ex Burschenschaft e vicinissimi al Partito Liberale, nel quale molti di essi dovevano conoscere una brillantissima carriera, decise di comporre un appello diretto all'opinione pubblica volto a sollecitare contributi in favore delle leggende scuole di Provais e più in generale in favore di comunità tedesche che si trovavano nelle stesse condizioni non solo in Tirolo ma su tutto il confine linguistico cisleitano. Per coordinare la raccolta venne concordato nella medesima circostanza di dare vita ad un Deutscher Schulverein, associazione scolastica tedesca. La nuova associazione, prima ancora di vedere approvati i suoi statuti, registrava nell'agosto dell'80 l'adesione di 13.000 soci e in 2 mesi raccolse 9.000 fiorini, quanti non ne aveva raccolti in tutta la sua esistenza il comitato di Innsbruck. Dopo altri 6 mesi i soci erano saliti a 22.000, dispersi in vari Länder Cisritani nel RAIS e i fondi a disposizione sommarono a 55.000 fiorini. Anche considerando normale che un'iniziativa promossa a Vienna da attivisti politici finisca con avere maggiore risonanza rispetto a passi analoghi di funzionari di provincia, i diversi esiti dei due appelli citati in favore della scuola tedesca restano notevoli. La situazione sui confini linguistici nel 1880 non era certo molto cambiata rispetto a quella di 3-4 anni prima. Il cambiamento avvenuto in questo periodo di tempo si era prodotto a livello politico. Nel corso degli ultimi mesi del 79 si era compiuta la progressiva uscita dei tedeschi dal governo, tedeschi liberali, e la loro sostituzione con elementi di nazionalità slava, alleatisi con i circoli clericali per nulla interessati alla questione di equilibrio nazionale. La composizione stessa del secondo governo Taffe indica a quale livello di emancipazione politica i gruppi slavi, ma possiamo dire cechi e sloveni, erano giunti nel breve volgere di 20 anni, tanti ne erano trascorsi dall'inizio dell'era costituzionale in Austria. Il Deutsche Schutzverein approfittò enormemente dell'allarme che l'esclusione dei tedeschi dalla guida del paese provocò in questo gruppo e ne fu esso stesso un prodotto. Le circostanze nelle quali si collocano, circostanze politiche nelle quali si collocano gli esordi del movimento per la difesa nazionale, il Deutsche Schutzverein è la prima associazione nazionale di massa, diciamo così, sembrano indicare che le sue motivazioni vanno solo parzialmente, forse neppure in primo luogo, ricercate nella conservazione della forza numerica della nazionalità, quanto piuttosto nella volontà di difendere posizioni di vantaggio nella vita pubblica del paese. Almeno fino al nuovo secolo, mi sembra di poter dire che l'oggetto che sottostava all'impegno dei Schutzverein, dell'Associazione di Difesa Nazionale, era ancora lo Stato, non la nazionalità vista come fine ultimo e elemento autosufficiente, per dire così. Non è errato ritenere, credo, che il movimento di difesa nazionale sia partito e per molto tempo abbia continuato ad essere piuttosto un aspetto di quello che è stato definito appunto il Ring um den Staat, la lotta per la supremazia dello Stato. Ciò detto a livello politico alto parlamentare, ma anche diciamo così, più concretamente nelle posizioni locali. Non è un caso che il secondo appello che il Deutsche Schutzverein manda al die Deutschen Standesgenossen nell'81 cerca di mobilitare i tedeschi, cioè tutti i tedeschi, adesso traduco direttamente in italiano, che non vogliono vedere come i nostri funzionari, insegnanti e commercianti tedeschi vengano accantonati anche da altri Kronländer, come è già accaduto in Ungheria e in Galizia. Credo che da qui si possa, da questa breve citazione, a cui però se ne potrebbero accostare molte altre, si possa vedere anche appunto questo aspetto che ho cercato di così sottolineare. È dal gruppo dei liberali tedeschi che partirono le prime iniziative in questo senso. A conferma poi di un'ancora ben viva leadership culturale, l'esempio dato dai circoli tedeschi venne ripreso pressoché senza modificazioni da tutti gli altri gruppi nazionali, sia al di qua che al di là della Leita. Addirittura la società italiana Pro Patria, speculare al Deutsche Schutzverein, compose i suoi statuti traducendo gli statuti della società tedesca. La stessa cosa fece la Ustredni Matice Skolska, l'associazione scolastica ceca. Il diffondersi di queste associazioni poté inizialmente essere giudicato da alcuni come un fatto positivo, e esse avrebbero, se ben guidate, potuto riempire la lacuna che presentava, secondo alcuni, il famosissimo articolo 19 della Costituzione. I diritti collettivi, qui genericamente assegnati ai Volksstämme, ai gruppi nazionali, avrebbero trovato infine un soggetto in grado di esercitarli in modo qualificato e permanente. Lo sviluppo di questa associazione prese invece un'altra direzione. Al motivo dei rapporti di forza tra le nazionalità cesaritane vennero ben presto associati caratteri che rendevano problematiche competizioni prive di conflittualità. Il progresso materiale, culturale, economico, ovvero per usare un'espressione dell'epoca, appunto, l'aumento del Besitzstand di una nazionalità, era visto dalle altre possibile soltanto a loro scapito. Di quanto una nazionalità progrediva su un campo qualsiasi della vita pubblica, di tanto doveva regredire, quasi a dover far posto alla nazionalità vicina. Da questo deriva, prima di passare all'analisi più ravvicinata di modi e ampiezza dell'operare di associazioni nazionali austro-tedesche in Trentino e nel litorale, una prima conseguenza. Per quanto nelle pubblicazioni del Deutsche Schulverein agli italiani venissero talvolta riservate espressioni poco lusinghiere, il Deutsche Schulverein non aveva obiettivamente motivo di ingaggiare nelle due regioni accennate somme di denaro di grande entità. Non gli italiani, ma le coalizzate forze dei gruppi slavi erano veri concorrenti per l'egemonia sull'Austria. Per quel che riguarda Trieste e Istria in particolare, nonostante qualche occasionale e tattica polemica giornalistica, la strategia del Deutsche Schulverein vedeva nell'elemento italiano piuttosto un potenziale alleato nell'opera di compressione delle aspirazioni slovene. Senza scendere in dettagli, si può almeno indicare che gli uomini del Deutsche Schulverein si ripromettevano dal mantenimento di una stretta subordinazione economica, sociale e politica degli sloveni a Trieste, evidentemente da effettuarsi all'opera degli italiani, in diretti benefici per la posizione delle colonie tedesche nella vicina regione del Gocce in Carniola, Krain, minacciate da una fin troppo entusiasta e consapevole ripresa del locale elemento sloveno. Il litorale, complessivamente considerato, aveva una netta maggioranza slava e la presenza tedesca si riduceva al 5% Trieste, grosso modo, e superava di poco l'1% sia Gorizia che Istria. A questa circostanza se ne aggiungeva un'altra, più contingente. Gli italiani avevano all'epoca rappresentanza politica a maggioranza liberale, ideologicamente affine alla maggioranza tedesca, su iniziativa della quale partì, come detto, il Deutsche Schulverein. Non per nulla gli italiani erano rimasti esclusi, alla pari dei tedeschi, dalla combinazione politica slavo-clericale che sosteneva il governo Taft. Insomma, anche considerazioni di partito, di tattica parlamentare, impedivano una troppo aspra contrapposizione con gli italiani della monarchia. Con qualche ragione l'organo del partito ceco, il Politik, poteva scrivere il 16 maggio del 1884 «Weil die Italiener liberal sind und gegen die Schuldenwelle gestimmt haben», la proposta di legge per modificare la legislazione scolastica in senso clericale, ecco, perché hanno votato contro questa legge, müssen sie von der Agitation des Deutschen Schulvereins verschont werden. Devono essere risparmiati dall'agitazione del Deutsche Schulverein. Il foglio cieco rimproverava al Deutsche Schulverein di non voler vedere che i nemici dello Stato erano i secessionisti di Trento e Trieste, non gli slavi, che non avevano ambizioni fuori dall'Austria. Il Politik poteva perciò bollare il Deutsche Schulverein di essere ad un tempo anti-slavisch e anti-österreichisch. In effetti, proprio sul rapporto con gli italiani risultò per il Deutsche Schulverein una situazione a prima vista paradossale. Il presidente Hoffmann del Deutsche Schulverein, Weitloff, deputato alla Reichsrat e al Landtag della Bassa Austria, dovette a più riprese fronteggiare in quelle sedi gli attacchi di deputati conservatori e clericali che rimproveravano al suo Verein di non essere abbastanza attivo nelle zone meridionali del Tirolo. In questi attacchi e nelle risposte di Weitloff si assistette ad un capovolgimento delle parti. I clericali, per principio contrarissimi all'agitazione nazionale del Deutsche Schulverein, tanto da avversarne dove potevano le singole iniziative, gli rintracciarono scarsa vispugnanti verso l'italiano in Tirolo e a Trieste. Il liberale nazionale Weitloff dovette invece fare l'elogio della pacifica convivenza tra gruppi nazionali. Ai clericali non premeva sollecitare per davvero un più deciso procedere del Deutsche Schulverein in Tirolo, ma dimostrare che il preteso amore per la nazionalità tedesca, troppo repentinamente e troppo rumorosamente sfoderato dai liberali, mascherava in realtà il semplice desiderio di creare imbarazzi e difficoltà all'azione del nuovo governo Taafe, che si voleva, per sua definizione, pacificatore. L'espressione maggiore della conversione dei liberali all'idea nazionale era costituita appunto dall'azione del Deutsche Schulverein. Infine anche un'altra notazione che originariamente non avrei anche saltato, ma poi ho visto che nelle discussioni anche riguardanti la politica nazionale nel Reich venuta a galla, diciamo così, si è fatto distinzione fra l'agire delle autorità scolastiche nella Alsazia Lorena, che sarebbe stato tutto sommato corretto, nel riconoscimento del valore culturale della lingua, della cultura francese, mentre invece sarebbe stato molto severo a est, dove l'elemento polacco non veniva considerato allo stesso livello. In effetti, scorrendo la pubblicistica del Deutsche Schulverein, questo tema viene ripreso molto spesso. Ad esempio, il responsabile per i Länder alpini, Steinwender, nel 1882 ancora, affermava riguardo la minore intensità della lotta nazionale in Tirolo che qui il Deutschtum si trovava di fronte ad un Kulturvolk, mentre alle popolazioni slave, ancora intente a crearsi ex novo una lingua e una letteratura, questo titolo non poteva competere, cosa che determinava un inevitabile abbassamento del livello dello scontro. Ed è poi interessante vedere che nelle assemblee della Propatria i triestini quasi, per dir così, invidiano ai tirolesi italiani l'avversario che devono fronteggiare. Scopo statutario del Deutsche Schulverein era la creazione di scuole private, ovvero l'erogazione di sovvenzioni a scuole già esistenti, situate lungo il confine linguistico o in isole linguistiche. A quanto risulta, nessuno dei promotori dell'iniziativa, che divennero poi i dirigenti dell'associazione, aveva precise conoscenze sulla situazione tirolese. La loro attenzione si concentrava pressoché esclusivamente sulla Boemia. Essi si affidarono perciò ad alcune pubblicazioni sull'argomento, la maggior parte delle quali apparse significativamente non in Austria, ma nel Reich, ai risultati ufficiali del censimento dell'80, ma soprattutto misero a frutto la regolare corrispondenza con qualificati simpatizzanti del Verein in loco, fra cui per attivismo si segnalarono proprio i membri della citata Deutsche Schulgesellschaft di Innsbruck, che si sciolse per dar modo ai soci e al patrimonio di passare alla nuova, più potente associazione. Fu così che il direttivo viennese del Deutsche Schulverein fu presto in grado di individuare i punti su cui focalizzare la sua attenzione. Va comunque rimarcato che né in Tirolo, né tantomeno a Gorizia e a Trieste, dove non esistevano in queste ultime regioni zone maggioranza tedesche, il confine linguistico italo-tedesco non presentava le insolubili difficoltà riscontrabili invece nei punti di contatto fra tedeschi e slavi, sia a sud, in Stiria, Carinzia, sia al nord, un po' ignorante. Nel breve volgere di 2 o 3 anni non vi era località nel Tirolo italiano che presentasse una maggioranza o una forte minoranza tedescofona che non avesse sotto vario titolo ricevuto sovvenzioni a fini scolastici dal Deutsche Schulverein. Bitte einschalten. Ecco, in Tirolo esistevano direi così 3 punti caldi, cioè con paesi a maggioranza tedesca. Questa linea che vedete qui è il confine amministrativo. Questa qui. Non è chiaro? Insomma, ecco, e comunque le zone tedescofone erano qui, nell'alta Val di Non. Un po' più basso adesso non vedo molto. Ecco lì. Non so, sono profondo comunque, ecco. E qui erano qui in Val di Fiemme, nel distretto di Cavalese. Vedete forse nelle vostre cartine ho visto Alterivo, Altrai e Trodena, Truden. E infine qui nella valle dei Mocheni, che adesso mi risulta più difficile, e questo è Trento, quassù. Ecco, questi i 4 paesi della Val di Non, i 2 tedescofoni della Val di Fiemme, erano direttamente contigui al territorio del Tirolo tedesco e non necessitavano di un impegno particolare. Qui il Deutsche Schulverein poté limitarsi ad un dispendioso ma indisturbato lavoro di routine. Vennero costruite locali scolastici che comprendevano anche l'abitazione dei maestri, venne inviato materiale scolastico e così via. Neppure da parte italiana vennero sollevate né all'epoca né in seguito obiezioni a contributi tedeschi in favore di queste comunità che erano senza ombra di dubbio appunto isole, penisole, perché confinavano direttamente col territorio tedesco, tedescofono. Sorsero invece perplessità per interventi a favore delle isole linguistiche costituite dalle comunità del versante sinistro della Val del Fersina, qui giù est di Trento praticamente, e di Luserna, sull'altopiano della Valone. Non so se riesco a far vedere Luserna. È proprio sul confine. Vado bene? Sì. Questa? È che proprio sul confine italiano. Queste perplessità non sorsero soltanto nel gruppo italiano, ma negli ambienti stessi vicini al direttivo del Deutsche Schulverein a Vienna. Si trattava infatti, nel caso della Val del Fersina e di Luserna, di località dove non soltanto l'elemento italiano era pari e in taluni casi addirittura superiore a quello tedescofono, ma dove la volontà stessa di coltivare una del resto assai corrotta comunanza linguistica con il popolo tedesco era latente. Alla fine il Deutsche Schulverein si decise ad aiutare le comunità di Frassilongo, Kereut, e Rovegia, Island, a costruirsi una scuola, cautelandosi comunque inserendo nei contratti relativi la clausola secondo cui, se in dette scuole la lingua tedesca avesse cessato di essere lingua di insegnamento, le comunità erano tenute a restituire per intero e con gli interessi le somme messe a disposizione dal Deutsche Schulverein. Più in là, il Deutsche Schulverein non andò. Qualche esempio. Appena risalita la Mendola dalla Val dell'Adige verso occidente, ci si imbatte nei paesi di Ruffré. La popolazione di questa poverissima comunità si guadagnava il pane svolgendo per lunghi periodi umili mansioni a Bolzano e nell'Unterland, nella bassa Tesina, nella zona fra Bolzano e Salorno. Era di evidente interesse per questa popolazione imparare il tedesco e al Deutsche Schulverein venne in effetti fatta richiesta affinché istituisse qui una scuola o perlomeno di organizzarsi corsi di lingua. Sul carattere tedesco di Ruffré, il direttivo a Vienna poté solo per breve tempo essere sviato dai suoi informatori. Vennero sì iniziate trattative per dividere fra l'associazione e la comunità i costi previsti per le vicende a scuola, ma appena dalla vicina fondo si fecero sentire le prime proteste orchestrate dall'italianissimo Battisti, il Deutsche Schulverein si ritirò in buon ordine e di Ruffré non si parlò più per molto tempo. Un ultimo accenno che permette di inquadrare meglio il lavoro di difesa nazionale in queste regioni. Nel settembre dell'84, Weitruf, presidente del Deutsche Schulverein, come detto, venne a compiere una ricognizione in Tirolo, dove non era mai stato prima. E forse potete adesso seguire il suo percorso sulla cartina, non l'ho segnato, ma insomma. Arrivato in treno a Bolzano, prosegue il giorno dopo per Branzò, al poco sud di Bolzano, dove visita il locale asilo creato di soldi del Deutsche Schulverein. Quindi, passato Caldaro, sale sulla Mendola per recarsi nella Deutsche Gegend della Val di Non. Raggiunge la piccola località di Tret, che è definito dal bollettino del societario, in tutta onestà, noch ganz italienisch, e perciò solo rapidamente attraversato dal visitatore viennese. Weitruf compie invece una specie di ispezione ufficiosa di 2 giorni alle scuole dei 4 paesi tedeschi della valle, preoccupandosi di verificare anche le condizioni abitative per i rispettivi maestri. Lasciandosi alle spalle l'ultima di queste comunità tedescofone nell'Alta Val di Non, Weitruf prese a scendere verso sud. Così dice il bollettino societario: plötzlich verschwanden die freundlichen, blonden, deutschen Gesichter, tanto che prosegue il resoconto del viaggio, der Weg von Kles durch den Rocketterpass nach Felschmetz, mezzo lombardo, an die Südbahn, bietet kein Schulverein Interesse mehr. Allora improvvisamente sono sparite i gioiosi, biondi volti tedeschi, la strada da Kles fino al passo della Rocchetta, che mette in comunicazione la Val di Non e la Val dell'Adige, fino a mezzo lombardo alla ferrovia, non offre più alcun interesse per l'associazione. Mi sembra importante sottolineare questo finale: bietet kein Schulverein Interesse mehr. Mi pare dunque si possa ritenere che l'associazione viennese non abbia recato pregiudizio nel Tirolo italiano a comunità non tedesche, come risulta da questi bei esempi che ho citato. Tra l'altro, nel 1886, che è l'anno di maggiore espansione del Deutsche Schulverein, l'associazione intratteneva in Tirolo appena 6 sezioni locali, di cui 3 a sud delle Alpi, a Bolzano, a Bressanone Brixen e a Ora Auer. Dunque sopra il confine linguistico, e nessuna di queste sezioni era nei distretti trentini. Nel litorale il Deutsche Schulverein contava 2 associazioni in tutto, una a Gorizia e una a Trieste, quest'ultima però molto attiva. La scarsa diffusione in queste regioni, nel litorale e in Trentino, risulta meglio se si tiene conto che nello stesso anno il Deutsche Schulverein aveva, per esempio, 245 sezioni in Boemia, 163 in Moravia e in una pur minuscola Silesia, 21. A partire dal 1894 si affiancò al Deutsche Schulverein nell'azione per la conservazione dell'elemento tedesco nel Tirolo meridionale e nel litorale un nuovo Verein, Südmark. Questa si era costituita a Graz fin dall'89 con l'obiettivo di ostacolare l'espansione slovena in certe zone della Stiria meridionale, soprattutto attorno a Maribor. Qualche anno più tardi, tuttavia, esse anche al Tirolo, decisione dettata in prima linea da motivi di prestigio, non certo da esubero di risorse. Il Deutsche Schulverein era stato, e continua ad essere fino al nuovo secolo, una specie di emanazione del Partito Liberale. Quando però la differenziazione politica all'interno del gruppo tedesco cominciò a farsi più variegata, gli avversari del Partito Liberale non lasciarono adesso il monopolio della popolarità, abbastanza facile bisogna dire, che derivava dalla Schutzarbeit nazionale. Così si ritrovarono nella Schutzmark i tedesco nazionali, gli scenariani, i seguaci di Schindler, e i cristiano sociali. Queste correnti dimostrarono un alto grado di litigiosità e gli equilibri all'interno della Schutzmark furono sempre assai incerti e mutevoli. La collocazione della Schutzmark nel quadro politico austriaco non può così essere inequivoco come nel territorio schutzerano. Soltanto nel 1909, 30.000 i cristiano sociali posero termine alle laceranti querelle interne, abbandonando la Schutzmark e fondando un Schutzverein per conto proprio, l'Ostmark, sulla cui modesta attività nel quadro che a noi interessa non è il caso di soffermarci. L'idea che di Schutzarbeit aveva la Schutzmark differiva notevolmente da quella riscontrabile presso i liberali del Deutsche Schutzverein. Sul piano strettamente operativo, per i nomi della Schutzmark, il modo più efficace per impedire perdite del Besitzstand tedesco risiedeva nella erogazione di incentivi economici a favore degli agricoltori, prima di tutto, ma poi anche di artigiani e piccoli commercianti di lingua tedesca. Infatti, che senso aveva aprire scuole se poi queste, a causa di emigrazioni o addirittura di assimilazione per motivi economici, non avevano figli di famiglie tedesche da accogliere? Queste convinzioni erano del resto da tempo correnti presso il tedesco Boemi, che fin dall'84 avevano dato vita al loro primo Wirtschaftlicher Schutzverein, associazione di difesa economica, il Böhmerwaldbund. L'originalità della Schutzmark risiede nel tentativo di promuovere l'insediamento lungo il confine linguistico di famiglie provenienti dal Reich. Si trattava di fare attenzione se qualche elemento sloveno in Stiria, italiano in Tirolo, avesse intenzione di vendere il suo terreno, la sua casa. Nel qual caso, avuta l'informazione giusta, la Schutzmark cercava di trovare compratori nel Reich. L'obiettivo dichiarato, cioè le famiglie disposte anche a trasferirsi sulla terra lasciata libera dal venditore sloveno o italiano. L'obiettivo dichiarato diventa così non solo il consolidamento della frontiera nazionale con i mezzi dell'insegnamento o del sostegno economico, ma anche l'opportuna modifica in determinati segmenti giudicati strategici della stessa a favore dell'elemento tedesco tramite una pianificata immigrazione dal Reich. Non accettavano invece immigrati dalla Bassa Austria perché ritenevano che se veniva qualcuno dalla Bassa Austria poi magari un boemo, un ceco avrebbe preso il posto suo in Austria. Un simile modo di intendere la difesa nazionale non poteva che suscitare forti recriminazioni presso le altre nazionalità e aumentare, cosa che infatti avvenne, di qualche grado il tono delle polemiche interetniche. Dopo quanto si è detto, si può capire come fra il Deutsche Schutzverein e la Schutzmark i rapporti fossero pessimi. Nonostante qualche occasionale aiuto fornito in comune ad una scuola o a un kindergarten, le due associazioni erano in disaccordo su molti punti fondamentali. Leale verso lo Stato e sostanzialmente fedele alla Weltanschauung liberale, la prima, non prima di toni Großdeutsch, radicale nazionale e antisemita, la seconda. Io penso che questo fattore, purtroppo non posso soffermarmi su questo aspetto, ma credo che il fattore dell'antisemitismo sia stata la vera colla che ha tenuto, finché è stato possibile, assieme le componenti variegate della Schutzmark. In questo comunque esiste una precisa analogia con il Deutsche Schutzverein. Anche la Schutzmark era nettamente antislavo e non guardava gli italiani in Tirolo o sul litorale come un avversario da battere. Se si scorrono le cifre che si riferiscono all'attività della Schutzmark in questi due Länder, consideriamo tale anche il litorale, ci si accorge che il fronte italiano resta del tutto secondario. Nel 1994 esisteva in Tirolo una sezione della Schutzmark e nessuna nel litorale. 10 anni dopo ve ne erano appena 18 in Tirolo, la più meridionale vale la pena sottolinearlo, era a Neumarkt, Enna, e quindi ancora a nord della parte italiana dell'Anzio. E quattro nel litorale. Nello stesso anno esistevano 90 sezioni della Südmacht in Stiria e 40 in Carinzia. Dato questo sbilanciamento verso la parte orientale degli interalpini, può non sorprendere che la Südmacht non abbia mai operato importanti investimenti nelle regioni che non interessano, ma quando si trattava di gravosi impegni finanziari, abbia al massimo, ma anche questo mi risulta molto di rado, due volte direi, affiancato il Deutsche Schulverein, ovvero, meglio più tardi, il Tiroler Volksbund, nelle loro iniziative autonomamente prese. Spese minori per libri o per premi maestri zelanti negli impegni nazionali sono sì documentabili con certa regolarità, ma rappresentano l'intero apporto che sul piano materiale la Südmacht poté o volle offrire. Queste furono le uniche due associazioni austro-tedesche ad operare nel Tirolo e nel litorale a sostegno dell'elemento tedesco e suscettibili di essere riguardate dagli italiani come panteroniste. Però abbiamo visto, insomma, che tutte le presentate. Mentre le realizzazioni della Südmacht sono del tutto trascurabili, quelle del Deutsche Schulverein ebbero un'apprezzabile consistenza, ma nelle zone dove la lingua tedesca non aveva perlomeno perso le radici nel posto. Se l'impegno, qui sorvolo rapidamente, ma solo accenno al fatto che se l'impegno del Deutsche Schulverein e della Südmacht in Tirolo, segnatamente, fu programmaticamente modesto, bisogna anche aggiungere che la propaganda che queste società svolgevano in Tirolo trovò una reazione da parte della popolazione locale tedesca non molto incoraggiante, un atteggiamento sul quale un dubbio influsso ebbe il clero tirolese. Ecco, ad esempio, se i clericali qui in Tirolo, come anche a Vienna, sapevano bene che Deutsche Schulverein era un'iniziativa liberale, e insomma, e in proprio quel momento l'intera gerarchia cattolica era impegnatissima nel cercare la rivincita sul Kulturkampf, diciamo, degli anni 70. E infatti all'assemblea dell'84, ad esempio, il segretario del Deutsche Schulverein, Graz, il segretario esecutivo Kraus, rendeva noto ai delegati dell'associazione che alcune località tirolesi, di cui però purtroppo non fece il nome, pur trovandosi in situazioni economiche assai disagiate, avevano rifiutato gli aiuti in denaro del Deutsche Schulverein per la loro scuola su istigazione del parroco. Il bollettino sociale del Deutsche Schulverein lamentava molto spesso come troppi tedeschi continuassero a ritenere che in Österreich nicht das Deutschtum, sondern der Katholizismus betrug sei. E molti pensavano in Austria, lamentava il collettivo del Deutsche Schulverein, che in Austria non l'elemento tedesco, ma il cattolicesimo fosse minacciato. È difficile dire se l'attività del Deutsche Schulverein da sola sarebbe bastata a suscitare apprensioni e anche un vero e proprio allarme presso l'italiano della monarchia. Appare comunque fuori dubbio che il dilettantistico e approssimativo, ma rumoroso e arrogante interessamento di circoli nazionali del Reich per i confini linguistici della monarchia compromise gravemente le possibilità di mantenere un'atmosfera non apertamente conflittuale tra italiani e tedeschi, soprattutto in Tirolo. La risposta dell'opinione pubblica del Reich all'appello del Deutsche Schulverein, dare soldi per scuole tedesche sul confine linguistico cisleitano, andò oltre le più ottimistiche previsioni. In pressoché tutte le città orientali e meridionali della Germania si formarono rapidamente sezioni locali del Verein Viennese e somme che i primi bollettini del Deutsche Schulverein qualificano di reichlich, ricche, senza però specificare meglio, presero da finire nelle casse dell'associazione scolastica viennese. Questa mobilitazione in favore del Deutsche Schulverein nel Reich, un merito anche qui esclusivo dei circoli liberali, meriterebbe di essere osservato da vicino, ma adesso non lo faccio, e mi aiuta a sottolineare che pur trovandosi da vicino in condizioni del tutto diverse rispetto ai Gesinnungskommunisten austriaci, ai compagni di partito austriaci, anche i liberali tedeschi dimostrarono proprio in questo periodo di poter adottare suggestioni nazionali che per contenuti e toni erano tutto sommato lontane dall'ideale di nazione da loro, dai liberali, per decenni sostenuta. La legge austriaca faceva però divieto ad un'associazione austriaca di intrattenere sezioni locali all'estero, e così le sezioni che si erano venute formando nel Reich si sciolsero. Ma da Berlino partì l'iniziativa per coordinare l'attività di queste sezioni che erano rimaste orfane della centrale viennese. Tuttavia, e così sorse, appunto per l'iniziativa della sezione di Berlino, l'associazione scolastica del Reich, l'Allgemeine Deutsche Schulverein, che lasciò però, contrariamente all'analoga iniziativa viennese, molta autonomia alle sezioni locali, le quali, a parte l'invio di una modesta percentuale delle entrate al direttivo berlinese, poterono poi scegliersi un proprio Betreuungsgebiet, una sua, loro zona particolare di intervento, e indirizzarvi i fondi raccolti. I gruppi della Baviera, del Württemberg, del Baden e dell'Assia scelsero quasi senza eccezioni quale campo per i loro interventi il Tirolo meridionale. A questo punto si assiste ad una calata dal Reich di giornalisti, scrittori, esperti di vario genere, semplici curiosi verso il Tirolo italiano, alla ricerca di isole linguistiche o perlomeno di usi e costumi che ricordassero un'origine tedesca, di comuni o toponimi che attestassero un passato germanico precedente alla italianizzazione di quelle zone e di quelle genti. Sarebbe facile, e oggi forse anche divertente, fare un collage delle stranezze riportate nelle pubblicazioni che sul mercato librario o sui giornali del Reich fecero immancabilmente seguito a queste visite in Trentino. Importa nel modo ritenere che le sezioni meridionali e lo stesso direttivo berlinese dell'Allgemeine Deutsche Schulverein arrivarono ben presto alla conclusione che anche su questo terreno della difesa nazionale gli austriaci avevano alla fin fine bisogno dei consigli, se non della guida, dei fratelli del Reich. Si può prendere ad esempio uno dei primi progetti tracciati dai gruppi di Monaco e Francoforte per far compiere un decisivo salto di qualità ai lavori di difesa nazionale. Un salto di qualità rispetto alle attività che ho illustrato prima. Osservando scientificamente, Wissenschaftlich, come dicevano, la carta del Tirolo meridionale, i nazionali di Monaco si erano convinti che l'isola tedesca di Loserna potesse essere stabilmente tenuta solo se fosse stata messa in relazione con altre località tedesche. Appuntarono fin dal 1881 il loro interessamento sulle località dell'altopiano della Varone e decisero di concentrare l'azione su Folgheria e San Sebastiano, paesi ai loro occhi dal passato senza dubbio tedesco e la cui popolazione ancora, a loro dire, riproduceva inequivocabilmente i tratti del tipo gotico. L'altopiano era separato dalla valle del Fersina, su cui carattere linguistico già ho detto, da una breve porzione della Val Sugana in corrispondenza di Caldonanza. Qui. E diciamo, l'esempio è qui. Qui è l'altopiano della Varone. Questa valle parla tedesco e questo è il punto, diciamo così, su cui intervenire. Come? L'altopiano era separato dalla valle del Fersina da una breve porzione della Val Sugana, in corrispondenza di Caldonazzo. Dalla Val del Fersina poi, tramite la spopolata e boscosa Val del Cadino, si poteva arrivare direttamente in Val di Fiemme in prossimità di Anterivo, Altrai, e di lì nel Tirolo meridionale tedesco. Insomma, con il necessario impegno si poteva riuscire a creare in territorio trentino una sottile striscia con carattere nazionale a grande maggioranza tedesco. È quella striscia che ho segnato in giallo. Una striscia sottile sì, ma strategica, perché spezzava la continuità nazionale del Trentino e perché permetteva ai tedeschi di arrivare a Loserna fino al confine con il Regno d'Italia, rimanendo costantemente in territorio tedesco, possibilità preziosa soprattutto, a dire di questi esperti della Germania Deutsche Schutzwehr, in caso di un conflitto. Ma credo che il punto più importante fosse il rompere la continuità nazionale del Trentino. Infatti le richieste di autonomia per questa regione venivano avanzate dai circoli politici trentini, non già richiamandosi all'esperienza del Principato Vescovile, a diritti storici, ma esclusivamente al principio nazionale. Ora, la presenza di insediamenti tedeschi poteva costituire un efficace argomento a disposizione degli avversari di detta autonomia. E effettivamente, quando nel corso del 1899 trattative a Innsbruck fra circoli politici tedesco-tirolesi e trentini parvero poter sfociare in una composizione che avrebbe forse anche potuto prevedere una qualche forma di autonomia per i Vechtstein, i capi famiglie delle comunità tedescofone della Val del Fersina resero pubblica sulla stampa tedesca la loro protesta contro simili progetti. L'impegno per la artificiale creazione di compatte aree tedescofone in territori a grande maggioranza italiane può sembrare per certi aspetti frutto di curiose megalomanie. Però va osservato che si costruì per davvero un kindergarten a Folgheria e una scuola tedesca a San Sebastiano, che davvero vennero comprati ampi appezzamenti di terreno sulle rive del lago di Caldonazzo e più tardi acquisito perfino, cosa che fece grandissimo scalpore, il castello di Pergine, che davvero vennero impiantati rifugi lungo la Val del Cadino. A questo punto, e per tacere di altri progetti similari conosciuti già all'epoca, si può comprendere la diffusione di un certo allarme presso il gruppo italiano del Tirolo. Venne formata la Propatria nell'86 e così si determinò una irrimediabile escalation nelle tensioni interetniche tirolesi. Ho rimasto pochissimo. Ma mi rendo conto che sto forse sforando. La centrale del Deutsche Schutzwehr di Vienna cercò di intervenire per dare un'altra direzione e anche un altro carattere all'aiuto dei gruppi del Reich in favore dei tedeschi d'Austria. Invitato alla seconda assemblea annuale dell'Allgemeine Deutsche Schutzwehr a Berlino, Weitwolf affermò chiaramente che dal Reich si indirizzavano troppe risorse verso il Tirolo del Sud e si trascuravano in proporzione i Länder Boemi, dove la lotta era ben più vasta e importante, tanto che, per dirla con Weitwolf, hier in Boemia entscheiden sich die Geschicke des deutschen Stammes in Österreich. Era in Boemia, a sentire Weitwolf, che si decideva la sorte del gruppo tedesco in Austria. Il Ferrari in Germania, insomma, compiva, secondo Weitwolf, un vero e proprio errore strategico, cui negli anni successivi venne solo parzialmente posto riparo. Fino al nuovo secolo, su tre marchi che il Allgemeine Deutsche Schutzwehr, l'associazione scolastica di Berlino, spese in Boemia, uno veniva speso in Tirolo, cioè c'è un rapporto di 3-1. Ma mentre, come abbiamo visto, in Tirolo italiano i tedeschi, i tedescofoni, complessivamente considerati, arrivavano forse a 2.000-3.000, in Boemia sappiamo di quanto fosse la consistenza del gruppo tedesco. Vienna, da parte sua, resistette alle pressioni provenienti dal Reich per muovere anche il Deutsche Schutzwehr sulla strada della rigermanizzazione del Trentino e della creazione di corridoi tedeschi nella regione. Dette pressioni provenienti dal Reich risultarono così forti e insistenti che all'assemblea annuale di Vienna nel giugno dell'84, i responsabili dei Länder Alpini, il già citato Steinländer, arrivò a dichiarare pubblicamente che zwischen den getrennten deutschen Enklaven in Trentino und dem Hauptstamme genau, zu permanisieren und so eine Verbindung herzustellen, liegt weder in unserer Absicht noch im Bereich des Möglichen. Germanizzare fra le singole isole tedesche del Trentino e stabilire un collegamento con l'area tedescofona dell'Alto Adige non è né nelle nostre intenzioni e neppure è nel campo delle possibilità. Dies auszusprechen fühlen wir uns ohne veranlasst, wie weitgehende die Forderungen sind, die von manchen unserer Freunde an uns gestellt werden. Wir wollen lediglich erhalten, was unser eigen ist. Ci sentiamo obbligati di dire queste cose perché ci vengono poste sempre nuove inviti da parte dei nostri amici. Noi vogliamo semplicemente mantenere quello che appartiene a noi. Certo, verso il primo del nuovo secolo la posizione di Deutsche Schulverein si fece meno netta e qualche concessione, più nella propaganda che nell'azione concreta, allo spirito grande tedesco è in effetti occasionalmente riscontrabile. A quell'epoca comunque era ormai l'intero quadro tedesco politico cisentano ad essere entrato in una crisi che molti potevano giudicare irreversibile. Proprio ai primi anni del nuovo secolo si collocano gli inizi di un'ultima associazione per la difesa nazionale, il Tiroler Volksbund. Qui tanto un po' perché diciamo la decisione di dare vita al Tiroler Volksbund è stata presa a Berlino. I circoli, come ho detto, della Germania meridionale avevano scelto come terreno preferenziale per i loro interventi il Trentino. E dalla Germania meridionale si erano formati, diciamo così, esperti nei rapporti nazionali del Tirolo. Questi esperti, alle riunioni del direttivo dell'Allgemeine Deutsche Schulverein a Berlino, praticamente godevano di carta bianca per quel che riguardava gli interventi in favore del movimento tedesco in Trentino. Questi, segnatamente il bavarese Romita, conosciutissimo in Trentino, e Mania, Edgar Mayer, pensavano che il lavoro svolto dal Deutsche Schulverein e dalla Südmark in Trentino non fosse sufficiente per garantire la permanenza dell'elemento tedesco in queste regioni. D'altra parte erano consapevoli che, intervenendo dal Reich, incorrevano due inconvenienti. Primo, nei confronti della popolazione locale che vedeva arrivare nelle proprie valli gente che non apparteneva al Land, e secondariamente di fronte alle autorità austriache che non vedevano di buon occhio, anche se non si opponevano decisamente, ad una troppo aperta attività di società non austriache, anche perché poi sarebbe stato evidente che da parte degli italiani chiedere che allora anche società del Regno potessero agire in Trentino. Così hanno deciso di fondare un, come dicevano loro, un Heimischer Verein, un'associazione tipicamente tirolese. Si riunivano, come ha detto il professor Benvenuti, a Sterzing, che vi piteno, nel 1905, e la nota nuova che apportarono nella Schutzarbeit in Trentino fu costituito appunto dalla sottolineazione quasi vorrei dire esclusiva del Tirolartum. Allora, la loro attività neppure faceva intravedere, la loro propaganda neppure faceva intravedere i motivi del folk o i motivi della solidarietà nazionale, ma sottolineava invece gli aspetti tipici del carattere, o considerati tipici del carattere tirolese. Allora, una grande deferenza verso il clero e la religione, mentre invece il Deutsche Schulverein, come detto, era liberale, e grande attenzione ai bisogni dei contadini. Qui effettivamente c'è una differenza, mi sembra fondamentale, fra le associazioni di Schutzarbeit che fino ad allora agivano e questa nuova, il Tiroler Volksbund, perché mentre le altre, segnatamente il Deutsche Schulverein, data la sua estrazione liberale, concentrava la sua attività soprattutto sulle città, sugli elementi dinamici addirittura delle città, e il Tiroler Volksbund mi sembra che, vabbè, in Tirolo non è che si potesse essere molto fini, però in questa fuga che stiamo facendo le campagne, nel lasciare la città, nell'esaltare, nell'utilizzare la vita contadina, mi sembra di vedere forse anche un'evoluzione più generale, ecco, che però adesso non posso più solo accennare. Ecco, ecco, però questi due temi, diciamo, del cattolicesimo e del valore morale e nazionale della vita contadina, mi sembra di poter dire, erano piuttosto strumentali agli occhi dei veri promotori, cioè appunto i berlini, la Germania da Gesù Ferrani, perché erano quasi tutti, senza eccezione, e questo forse può aver allarmato il vescovo di Trento, loro erano personalmente protestanti, erano personalmente luterani, ma certo non fecero propaganda luterana. E il secondo motivo è che, a quanto risulta almeno dai verbali dell'associazione berlinese, l'impegno dell'associazione nel Tirolo meridionale spesso e volentieri veniva messo in relazione con i possibili vantaggi commerciali del Reich con il sud mediterraneo. Ecco, il Deutsche Schutzverein agì effettivamente soprattutto, contrariamente alle altre associazioni, sugli italiani, non sui tedeschi. Vale a dire che il Tirol Volksbund non si preoccupava soprattutto di mantenere la consistenza dell'elemento tedesco là dove era presente, ma cercava di riportare alla comunanza tedesca gli italiani delle regioni dei distretti trentini che, a loro dire, erano stati costretti, in un passato neppure tanto remoto, ad abbandonare la propria lingua e il loro senso di appartenenza al ceppo tedesco. Infatti, nel manifesto costitutivo del Tirol Volksbund possiamo leggere che esso faceva appello a tutti gli abitanti del Land, di sich nicht selbst außerhalb der Tiroler Volksgemeinschaft stellen, che non si situano da sé al di fuori della comunanza nazionale tirolese. Ma comunanza nazionale tirolese è evidentemente un paradosso, e che veniva giustificato nella loro propaganda appunto col motivo che anche quelle migliaia di persone che nella vita di tutti i giorni parlano in italiano sono soltanto, sto traducendo al volo, sono soltanto in minima parte italiani nel senso della razza, vale a dire appartenenti al popolo italiano. La maggior parte dei trentini è di provenienza tedesca o latina. Arrivo alle conclusioni. Ecco, è forse opportuno così, anche se ho dovuto andare molto velocemente sotto la Volksbund, differenziare un eventuale giudizio sulle motivazioni e sulle attività delle cosiddette società pangermaniste. Certo, fare le opportune distinzioni non era sempre agevole in un'epoca in cui la lotta nazionale era in pieno corso, epoca alla quale dobbiamo, con poche eccezioni, ancora la maggior parte delle pubblicazioni monografiche sul tema. E tanto più che queste pubblicazioni coere sapevano bene che un mezzo efficace di propaganda e poi anche di ingigantire la pericolosità dell'avversario. Gli investimenti in termini relativi, lo ripeto, piuttosto modesti, e Deutsche Schutzverein in Tirolo ebbero a partire dall'80 come fine e rinsaldare tramite l'istituzione scolastica il carattere tedesco di località in cui esso si era venuto magari parzialmente perdendo, ma dove aveva conservato radici. La propaganda della Südmark, perché di iniziative concrete di questo Verein in Tirolo e nel non si può parlare, abbracciava anche gli aspetti economici e non solo culturali e scolastici. Le associazioni del Reich fin dall'inizio non solo dimostravano, va da sé, una sovrana noncuranza per gli interessi dello Stato asburgico e anche di Signori Renda, ma il sostegno di esse concesso a comunità tedescofone o non tedescofone addirittura era subordinato alle possibilità di espansione politica ed economica della Germania. Nonostante l'evidente radicalizzazione che incisa le contrapposizioni nazionali conobbero a partire dall'ultimo decennio del secolo, non tutti gli austro-tedeschi, neppure quelli impegnati nella Schutzarbeit, erano disposti a condividere simile impostazione sostenuta dal Reich. Perfino all'interno della Südmark, i sostenitori di una totale subordinazione del Verein ai supposti interessi del Reich, che essi già riguardavano come la futura patria, rimasero a lungo in minoranza. Grazie, scusate, sono usato. Ringrazio Zaffi che ha inquadrato molto bene questo tema dell'associazionismo tedesco nelle province di lingua italiana, nel quadro più generale dei problemi austriaci ed anche naturalmente in quello ancora più generale del rapporto tra l'Austria e il Reich tedesco e in genere della penetrazione o dei tentativi di penetrazione nazionale tedesca, in questo caso senza più aggettivi statali. Mi ero segnato alcuni punti che avrei voluto magari proporre come introduzione alla discussione, siamo forse un po' in ritardo, d'altra parte abbiamo sentito cose interessanti e quindi inizierei subito la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Rocchi. Particolarmente interessante il discorso sul fuori spunto, con riferimento alla nostra storiografia locale, perché a noi la gente a noi succede questo, che insomma si presume che tutti sappiano cos'è il Volksmund e in realtà ho l'impressione che per capirlo occorre proprio partire da questo retroterra del Vereinswesen, e questo non so fino a che punto è stato approfondito, ma dal lato della storia ecclesiastica del luogo mi punge da qualche anno l'interrogativo se quella qualifica, quel allarme che su larga scala Endrici personalmente e il cattolicesimo trentino ha divulgato, come se di fronte a questa azione del Volksbund il Trentino fosse addirittura di fronte al pericolo di una defezione della fede, di una propaganda protestante contro la quale bisognava chiamare allarme. Ecco, mi conferma quanto ho sentito che questo allarme non c'era. E adesso non so se Benvenuti è d'accordo con me, ma direi che questo è comunque un punto da approfondire, perché non è indifferente per la storia della comunità cristiana se questo pericolo fu reale o se questo pericolo fu immaginario, anche se l'immaginazione poteva nascere sotto una mitra, no? Nel qual caso il problema piuttosto si pone su un determinato modo di assolutizzare certe realtà che assolute non sono, come appunto queste spinte politiche, queste situazioni contingenti, no? Ma che insomma forse da parte degli ecclesiastici qualche volta può anche venire un po' forzata, vero? Portandola su un piano di pericolo vero, ecco, un po' esagerato. Per me questo è veramente un problema della storia ecclesiastica trentina contemporanea, no? In questo caso una certa intrusione di un allarme dogmatico in una questione che è prettamente profana, dove uno può avere opinioni diverse, per quel che ricordo, e questo mi ha portato alla riflessione anche, per quel che ricordo io da reminiscenze familiari, la nostra buona gente, proprio nel Berginese, quindi, ecco, viveva in questa situazione che trovava un'offerta per imparare la lingua tedesca che dal lato pratico poteva presentare è vero, un'utilità notevole. E quindi anche famiglie veramente molto cristiane, ecco, accedevano a questa offerta, benché sapessero che il parroco, eccetera, la chiesa ufficiale, non voleva, ma loro dicevano, non capivamo perché, perché certamente non ci veniva niente insegnato che potesse in qualche maniera, vero, andare contro la fede e contro i costumi. Distinguevano molto bene tra il piano profano e contingente e il piano invece, questo buoni cristiani credenti, ecco, ma questo fa parte ormai della cronaca più che della storia. Grazie. Grazie, non so se il professor Benvenuti, che è stato chiamato in causa, ma che ha già un po' toccato questo tema stamattina, vuole parlarne un po' di nuovo. C'è stata un'esagerazione, vero, anche da parte dello stesso vescovo, su questo pericolo, che non ci fosse stata dell'esagerazione, vero, di fronte a quello che poteva essere. Del resto, già se pensiamo, vero, andando indietro di una quarantina d'anni, anche davanti al pericolo, vero, ci fosse pericolo per l'unità dei cattolici al tempo del movimento della Glaubensheit, anche questo, vero, per quello che riguardava il Trentino, un reale pericolo non c'era all'unità dei cattolici. Ma, e allora lo stesso vescovo Riccabona non è che avesse preso una posizione simile a quella del vescovo di Bresanone, non c'era, vero, questo pericolo, non c'erano comunità protestanti, e anche al tempo delle intrigi aveva accennato, si poteva parlare per la città di Arco, per quelle indicazioni che venivano fatte, vero, da un prete protestante. Piccoli episodi a Tenna, vero, anche qua per quello che riguarda, vero, la zona dell'ex ospedale, proprio qua dove siamo noi adesso, Santa Chiara, c'era stato del capitale che dicevano protestante per acquistare il terreno in previsione della costruzione, vero, di vero, un tempio protestante, ma erano, vero, probabilmente, vero, dei tentativi, ma che di sicuro non avrebbero dovuto dare particolare motivo di allarme. Probabilmente sotto la spinta delle società nazionali, della Lega Nazionale, così anche l'entrici, vero, prendeva queste posizioni. Adesso, questo è difficile, penso proprio, come ha detto, è ancora un problema questo da approfondire. Rimane insomma il dubbio di questa esagerazione del pericolo protestante per quello che riguarda, penso, in questo mi trovo d'accordo un po' con quello che ha detto senz'altro Monsignor Roger, no? Non so se Zaffi vuole dire qualche cosa, poi ci sono diverse, non so se vuole. No. Allora, se non sbaglio, Visentini. Sì. Io vorrei dire una cosa solo rapidissima che riguarda anche proprio un legame territoriale tra i temi un po' di questo convegno, cioè con la Sazza Lorena, perché credo che sia abbastanza importante ricordare che lo stesso problema si presenta in una Sazza Lorena di fronte alla consistente migrazione italiana di cui ci hanno parlato nei giorni scorsi. Io vorrei ricordare che in primo luogo che questa migrazione che proviene poi dall'arco alpino era ancora più consistente perché non riguardava soltanto i nuclei industriali o comunque minerari, ma comprendeva anche tutto quell'intenso lavoro di fortificazione del confine orientale della Germania, quindi Magonza, quindi Coblenza, quindi Colonia e Strasburgo stessa, che consistendo prevalentemente in lavori in terra e vedendo questi fatti soprattutto da italiani, vide una consistente migrazione stagionale e in quell'ambito si viene a creare anche un notevole interesse per quello che era il problema religioso del contatto diretto col protestantesimo, che circolò poi molto nelle riviste cattoliche, nella cultura cattolica del tempo, un esempio il famoso vescovo Bonomelli con la sua opera L'assistenza degli immigranti. E io non so se questo può avere un significato per il Trentino, però si era emersa in sostanza la conclusione che il vero pericolo non consisteva tanto nella predicazione diretta, cioè nel fatto di venire a contatto col mondo protestante. Perché questo sì, in qualche caso, anche con delle forme poi di inganno abbastanza ingenue, si era avuta qualche conversione, ad esempio, di Bergamaschi al protestantesimo, però non erano fenomeni duraturi. Il vero problema che si era rivelato era che, strappato al suo contesto sociale, in cui la religione e il sacerdote erano due riferimenti che stavano assieme a tutti gli altri, però, quindi al lavoro, quindi alla famiglia, quindi alla morale, quindi a un sentire comune, spesso l'operaio perdeva la fede, abbracciava altre fedi e conosceva uno smarrimento. Non è un caso che insieme alla fede se ne andava la morale, perché veniva meno quel vincolo del controllo sociale che meno male agiva in patria. E quindi sarebbe interessante vedere quante di queste idee che portano poi con sé anche un problema più della modernizzazione, cioè di controllare le strutture e il mutamento del territorio, che non è però rilevante anche in questo caso, perché la Germania in particolare è la portatrice senza dubbio di uno sviluppo economico diverso da quello di una società tradizionale come quella trentina. Sarebbe interessante vedere se ci sono eredi di questa esperienza salziana o comunque di queste idee anche nell'ambiente trentino. Allora, la parola a Leonardi e poi la professoressa Spadaro. Io avevo due questioni su cui intervenire. Un po' più vicino. La prima era in merito al problema che ha posto adesso Monsignor Roger, e cui ha parzialmente risposto il professor Benvenuti. Mi sono qualche anno fa occupato di una fonte che può dare una risposta abbastanza puntuale al quesito posto. Se Indrisci avesse o meno esagerato la portata del fenomeno volkskundista, soprattutto delle associazioni pangermaniste. Pochi mesi dopo la sua nomina a vescovo di Trento, indice la lista pastorale. Cambia radicalmente il questionario che era stato a suo tempo redatto dal vescovo Valussi per la predisposizione della visita e introduce una serie di quesiti cui ogni curatore d'anima doveva rispondere, di carattere sociale, di carattere economico, oltre che evidentemente di carattere pastorale. Tra le questioni che pone, chiede a tutti i curatori d'anime quali periodici siano diffusi in ogni comunità. Che tipo di periodici? Evidentemente i curatori d'anime avevano la capacità di controllo di ogni foglio di stampa che arrivava in ogni singola comunità. Chiede non solo il numero delle testate che arrivano e chi le legge, chiede anche di che tipo sono, e chiede quanti aderenti al Volksbund ci sono in ogni comunità, se esistono iniziative della Stuttmark, se esistono iniziative della Deutsche Schulfrei. Ebbene, le risposte che ho esaminato coprono il 94,8% dell'intera diocesi e mi risulta che le risposte preoccupanti a questi quesiti siano pressoché nulle. Cioè, da parte dei curatori d'anime non c'è preoccupazione di questa propaganda. Questo è una fonte che direi abbastanza significativa. I curatori d'anime dai parroci ai curati ai primissari, quindi il quadro è abbastanza completo. La questione che volevo porre io è invece leggermente diversa. L'accenno che ha fatto alle iniziative di carattere economico del Volksbund soprattutto può meglio precisare, nel senso che esistono dei riscontri operativi di una reale partecipazione alla promozione dell'attività economica in centri diversi, tanto del Tirolo che del Küstenland. Perché probabilmente, più che non interventi diretti, ci sono stimoli ad iniziative di imprenditorialità proveniente non tanto dagli Erblender austriaci, bensì dal Reich tedesco. Imprenditorialità volta soprattutto a valorizzare le risorse turistiche, cioè un settore economicamente nascente e in fase di rapida espansione. Io ho avuto modo di studiare un caso peraltro molto significativo, perché è quello della nascita e dello sviluppo del turismo termale, e lì gioca un ruolo particolarmente importante il contrasto forzoso, artificioso, totalmente artificioso di tipo nazionale. Mentre, cioè, come dire, questo si presenta alla facciata, mentre gli interessi reali sono solo ed esclusivamente di carattere economico, tra contrapposizioni di gruppi economici, che non ha niente a che vedere con i problemi nazionali. Si vuole però far apparire l'azione degli uni e degli altri come vestita, come ammantata di contenuti nazionali. Gli interessi reali, invece, girano, come dire, sono compenetranti tra i diversi gruppi di etnia diversa. E quindi non mi pare possibile intravedere un'azione diretta volta al sostegno di determinate posizioni nazionali da parte dei gruppi stessi. Però in questo titolo pongo, eventualmente potrei esplicitare meglio come si è manifestata invece l'interrelazione tra i gruppi vestita di abiti diversi. Grazie. Ma questo del sostegno, dell'appoggio economico delle associazioni di difesa nazionale ha assunto molte forme. Adesso ogni associazione nell'arco di un anno evidentemente con tutto il esaminando in dettaglio si potrebbero magari fare interessanti scoperte, questo è indubbio, ma in linea generale il sostegno economico che queste associazioni così, offrono al gruppo nazionale nelle zone che ritengono strategicamente importanti è abbastanza simile ovunque, e cioè ad esempio curano la diffusione di brochure, di opuscoli che indicano tonne tecniche agricole. C'è un'agenzia molto forte, non è che vi lancio arrivano, perché qui si tratta... Ah sì, ma io posso parlare in generale, non del caso specifico, perché non trovo non so neanche a quale caso riferisco. Comunque, magari possiamo parlarne. Io presento un po' la tipologia di quelli che erano interventi su quali settori facevano le spese e finanziavano ad esempio cosiddetti conferenzieri itineranti che appoggiando sulle varie sezioni locali venivano a discutere su spesso anche sulle stesse condizioni di credito e a volte erano anche in grado di offrire crediti a tassi di interesse relativamente, anzi nettamente favorevoli. Non si trattava esattamente di interessi prestiti che potessero rendere possibile grandi investimenti, però potevano essere di grande aiuto soprattutto ad artigiani e a contadini. E in questa voce si registrano delle spese molto, mi sembra molto forti. Forti, dico, tenendo presente del bilancio generale dell'associazione. In più le associazioni, adesso non parlo solo del Trollo Foxman perché questa è una caratteristica di tutte e direi quasi in tutti i lender, almeno quelli che ho potuto considerare, le associazioni cercano di fare, mettere a profitto i collegamenti diretti dei presidenti o dei segretari sezionali o centrali per indirizzare il risparmio nazionale verso istituti amici. Abbiamo spesso creazioni di banche che appunto nella loro attività poi devono tenere presente la discriminazione nazionale. Questo è un aspetto importantissimo della lotta fra le nazionalità in Austria. Ad esempio, cioè qui io volevo veramente coprire un arco di interventi grandissimo. Poi, se vogliamo discutere su quale sia stato il risultato o le motivazioni in loco, io questo effettivamente non potrei dire. È vero, comunque è interessante la prima, ad esempio, guida turistica di talune valli della Boemia è stata fatta ad opera delle locali associazioni di difesa nazionale che provvedevano addirittura a impiantare dei rifugi, a segnare i sentieri e insomma a dotare i turisti di tutte le loro necessità. Ma, però facevano propaganda ovviamente nel Reich o nei paesi tedeschi d'Austria, non fuori. Grazie. La signora Garbato. Brevemente sull'ultimo tema trattato, e direi che i timori, lo spettro del luteranesimo, si riscontra anche in contrapposizione guardando nell'archivio della Lega Nazionale Sezione Trentina, un archivio imponente di Rei presso il Museo del Risorgimento, che però è soltanto scorso per alcuni settori. Non solo, ma nell'archivio, accanto agli interi di sacerdoti, accanto a una corrispondenza abbastanza intensa col Conci che domanda addirittura sovvenzioni a Innsbruck e a Vienna per la scuola di Canezza, da contrapporre alle scuole tedesche di Frassilongo e degli altri paesi della valle. Ecco, accanto a questo c'è veramente abbastanza consistente il timore della penetrazione, soprattutto da parte del Volksbund, nelle iniziative turistiche e la penetrazione sul Garda. Lì la corrispondenza è enorme, veramente per potersi tutelare da questa avanzata nel turismo trentino e nel Garda da parte delle associazioni tedesche. Però non era su questo che volevo intervenire. C'è un'osservazione iniziale del dottor Zaffi che mi ha molto interessata, e cioè questa. E il fatto che tutto sommato il governo viennese non è che appoggiasse l'opera di tedeschizzazione ai confini, tutto sommato, soprattutto per quanto riguarda il Trentino, tutto sommato ogni nazionalità aveva il diritto alla propria esistenza, del resto le scuole in lingua tedesca erano garantite dalla Costituzione, perciò per legge Palù, Fierozzo, Frassilongo, Rueda, Luserna avrebbero dovuto avere le scuole in lingua tedesca. Però questo recupero dell'elemento tedesco diventa importante, è un accenno del dottor Zaffi, nel momento in cui, allargandosi il suffragio, l'elemento austro-tedesco rischia di rimanere in minoranza di fronte all'avanzata degli slavi. E allora ecco la necessità di recuperare al massimo i cittadini tedeschi, perché qui c'è un progetto politico. E vengo subito al fatto concreto. Alla vigilia della votazione con il suffragio universale, votazione che avverrà nel 1907, nel 1906 si pensa alla rideterminazione delle circoscrizioni elettorali. Allora c'è un progetto che qui solleva un enorme scalpore: creare un aggancio fra le isole linguistiche tedesche, cioè Palù, Fierozzo, Frassilongo, Rovella, Luserna e zona mistilingue, agganciarle alla prima circoscrizione elettorale tedesca per aumentare il numero degli aventi voto tedeschi. La cosa scoppiò qui sulla stampa e direi con più clamore da parte della voce cattolica che non dell'Alto Adige, e in questo senso il portavoce della protesta di fronte al progetto di questa anomala circoscrizione elettorale, e proprio il leader della protesta fu Conci, l'onorevole Conci, un cattolico. E naturalmente questo non avvenne, e non avvenne probabilmente perché è un po' difficile creare una circoscrizione elettorale con dei paesi, con dei centri che sono isole, cioè territorialmente non contigui, cioè la cosa accadde. Però ecco, questo che accade nel 1906 mi riporta all'osservazione iniziale fatta da dottor Zaffi, cioè dalla poter leggere in un certo altro modo anche questo fatto della penetrazione, del consolidamento dell'elemento tedesco sui confini. Zaffi risponde? No. Ecco, allora ti chiederei una cosa: chi pensa ancora di intervenire sulla relazione per fare un piccolo censimento? Va bene, sì. Altri? Ecco, allora la parola a Lasina, sì, no, poi chiudiamo questa fase. Nell'ultima parte che sta accennando di Robert riportare la componente, la comunità, l'origine tedesca, coloro che l'hanno lasciata ma che in realtà lo sono, c'è un parallelismo elettorale, soprattutto nel clero, che ha una sorta di tutoraggio verso gli ex croati italianizzati e diciamo fanno di tutto per riportarli a quella che per loro è la loro vera origine, e quindi non più un contenimento ma quasi un tentativo di recupero, che da una parte è culturale, nel senso proprio di paternalismo, dall'altra anche insomma è significativa, anche c'è il vescovo, quel vescovo Magnus che citavo, che quando a un certo punto c'è un problema a Nevesina, insomma una questione di, lui dice, sono 3.000 famiglie, sono tutte croate, poi si leggono i memoriali, in realtà sono gli stessi che chiedono l'introduzione del latino, però nel giudizio dell'autorità vescovile in questo caso c'è questa forma di no, quelli sono croati, anche se si riferiscono in italiani, è per propaganda, è per, ma sono croati, cioè c'è questa, e da qua credo discende anche tutta quella serie di accuse classiche del clero slavo di aver contraffatto tutti i registri dei battesimi, croatizzato tutti i nomi, che è un dato diffusissimo da noi fino a diventare pericoloso in modo comune. Tuttavia io non considererei beneficio della buona fede agli uomini del Troll Volksbund. Io non credo che loro davvero pensassero che esistesse una Tirola Volksgemeinschaft, una comunanza nazionale tirolese. A me sembra che fosse un argomento puramente strumentale per la loro azione, quindi non so, questo riesco mai. Grazie. Se allora solo due parole di conclusione di questa parte dei nostri lavori. Prima di tutto, perdonatemi la mignoleria di una osservazione, non esiste la Costituzione austriaca e non esiste l'articolo 19 della Costituzione austriaca. L'insieme delle istituzioni costituzionali austriache eretto da 7 leggi costituzionali, una delle quali è quello sui diritti generali dei cittadini, di Allgemeine Rechte der Staatsbürger, e l'articolo 19 di questa legge sui diritti generali dei cittadini è quello che regola la questione linguistica al quale Zaffa ha fatto riferimento, al quale ha fatto riferimento la signora Garbari. Il principio rimane ugualmente di fondamentale significato, ma appunto è all'interno di questo corpo di leggi costituzionali austriache.